cosa si dice? Lui già fa, ciao, buonasera. Che ci dice? Niente, ci dice. Ci vivacchia, ci vivacchia. Tutto K di Rogero. E boh. Nessuna novità quindi sul fronte orientale, né occidentale. E se tira a campà come diceva Totò. Allora, si tira a campà. Perché per 5 euro che non ti fa neanche la colazione al bar, ti giochi la licenza, che per, se poi vai a farla la studi, perché ti tolgono il nominativo, capito? E quindi togliendoti il nominativo, credo che quindi la licenza non c'è neanche più diritto alla detenzione degli apparati. Cosa ho per il nulla? Quella detenzione non c'ho più niente, mi ho potuto tutto già fare, ci sono baracchini in buco, l'ho già detto, non frega niente, adesso la prendo, nome attivo, ricetta, tutto, me la puta c'hai, ancora qualcuno crede, perché c'è un coglione che sempre in ascolto e poi riferisce, ancora crede che io voglia fare chissà che cosa, io mi ho potuto tutto già fare, antenne, cavi, rotori, radio, tutto, tutto, non c'ho manco antenna io, né per fare HF, né per niente. Solo i bracci attaccati perché stava facendo tempo brutto, mi ha attaccato anche di polo e 40-80 fila che mi serviva giusto per ascoltare, che non ho manco radio per parlare, quindi ce l'avevo collegato sul 430 per ascoltare, ma non posso parlare perché non c'ho manco accordatore, quindi neanche voi Uccio, te l'ho già detto, nulla, non c'ho più niente, quindi io non mi voto proprio nulla. Mirami a radio qual è me, questo bellissimo barracchino, è bello Gariello. E beh, Claudio, mi sono appena tornato, ho fatto un bel giro, ho fatto casa di Marina, poi sono andato lì a Latte Dolce, poi tutto il giro verso la Budi Budi a piedi con i cani. Sono stanco morto, mamma mia. Marina è abituata a passeggiare, io no. Ui, ormai, sono anziano, mi sento anziano, non ho più furia, boh. Vabbè dai, ciao anche Gianfranco. Dai, mi assento, adesso mi vado a dare una sciacquata. Ci sentiamo dopo magari. Via. Ehi, allora, dai, sentiamo dopo, tanto sono qua io, immerso in questi bei barracchini vintage. Ecco Gianfra, non mi interessa, ma cosa me ne affutti Gianfra? Ma io faccio quello che dico io, non quello che dicono gli altri o che ascoltano e riferiscono, capito? E c'è questo coglione che ogni tanto manda qualche messaggio ad Olbia, ma a me di quello che dicono poco mi interessa. Io, a me, non me ne affutti proprio nulla, io continuo a fare il CB come ho sempre fatto, e lo faccio bene anche con tutte le cose che servono. Non mi interessa già fare una domanda perché mi sembra che sia già scaduto, no, non gli ho pagato io. No, scade il 31, cioè o meglio, non è che scada, il 31, dopo il 31 mettono una sovrattassa, tutto lì. La devo fare perché ovviamente c'è la stazione, quindi c'è un diverso approccio, anche se raramente parlo perché la mia passione in realtà è il digitale, però non la faccio in ogni caso, sono tenuto a farlo perché ho anche gli apparati in macchina, tutto lì, quindi cerco di arrangiarmi, poi le mie passioni in termini di radio, sai, sono differenti, sono anche da tutti gli altri, a prescindere che ci sia gente o meno, non ho interlocutori, quindi cosa vuoi fare? sono peggio, ma sono peggio anche di te, perché se ci fosse qualcuno, magari qualche chiacchierata te la faresti, ma io di cosa posso parlare? Del nulla, del tempo. Ognuno alla radio parla come vuole, fa quello che vuole, ho già meno potenziarmi di quello che dicono gli altri. Non è che io mi entro, l'altro mi esce già fra. Te l'ho già detto, continuo a ribadirlo per questo imbecille che continua ad ascoltare e a riferire stronzate a chi deve, a chi c'ha lui. Capito? No, sono andati a dire, no, che io devo rimontare le antenne, che devo, io devo rimontare le antenne. Mi ho già venduto le antenne, ma mi ammazzo prima di comprare un'antenna amatoriale, mi ammazzo, mi impicco. Mille radio che sto comprando, quali sono? Comprando, scambiando, facendo. Baracchini e boh. E così continuo a fare. Non ho più, non c'ho più niente, manco HF, nulla, nulla, non voglio nulla. Mi dispiace aver venduto la T230, mi sarebbe servito come commutatore. Però già mi ha salvato tutto. KK. E così è. Va bene, comunque. Mando le ciance, ognuno dica e faccia quello che vuole. Claudio Sparviero è qua. Il 27, e il 27 muore. Mancare Venezia nei rocci a tutti. KK. Ma non c'è nessuno. Greco, qua Rosso, per un certo radio, mi è stata la cortesia di sentire, perché secondo me è fuso lineare qua il furgone. E infatti è un piacere, come arrivo, mi sento bene, grazie. Ciao Rosso, buonasera, Claudio Sparviero da Sassari. Magnificamente bene, Santiago Nuovo, Radio 5. Fatta, sono contento. Mi senti onorato verissimo perché ero a Bancali, mi sto spostando, quindi sono in strada, siamo in linea d'aria, quindi siamo... Sì, non so, sarebbe benissimo. Sto lavorando dietro a un vostro collega, c'era una casa piena di antenne, o sono amico Bancali. No, non ne ho io amici di Bancali, no, non lo so. Se hai visto delle antenne, può essere sia qualcuno che ha le radio, ma io non ne ho amici che hanno le antenne, capito Rosso? Antenne ce ne sono tante, ma non sono amici miei. Avanti Giaffra. Anch'io la sento bene, 9-10, per essere Bancali arrivo anche troppo bene. Comunque, Claudio, adesso devo dire la verità, un pochettino di curiosità, comunque già ne parliamo via filo, mi finché ridere, e niente, io non ho fatto ancora quella cosa per un motivo banale, mi sono dimenticato, tutto lì, riprendi. Guarda, ti chiamo subito così ti dico gli ultimi messaggi che ho ricevuto poc'anzi, perché sai quanto ne ricevo, no? Non te ne dico, ma questa gente è convinta che andando a riferire pensano che poi non me lo riferiscono. Cazzo, che gente stupida, veramente. Vabbè, sempre qua Claudio Sparviero, a testa alta, non ne ha problemi con nessuno. Toglietevi dalla testa, a me dalla banda amatoriale manco per un cazzo, mi ha fatto detto proprio in gergo sporcaccione. E finitela di rompermi i coglioni, punto, non vi avviso più. Ok, ma dove sei Rosso? 131 km 213, c'ho l'antenna un po' piegata, quindi non so come posso arrivare. Niente, voi sempre verissimo, vi lascio, dai, vi lascio parlare in santa pace, grazie del controllo, magari ci sentiamo quando sono più avanti. KK, va bene, ok. Siamo qua, quando vuoi, non c'è problema. Aspetta, già fai, ti faccio un colpo di... E devo chiedere anche una cosa di quella radio militare, perché non ho capito dove devo collegare il cavo del 24 volts in quel cavetto. Non ho capito proprio. Sinceramente, non è detto così di sfuggito, visto che c'è un attacco particolare, dove ci sono dei tappini, forse va collegata lì, e poi il rosso e il nero va collegato al 24 volts, così è. Sì, te lo spiego via filo. Intanto per il rosso siamo a 9.20, radio 5, ovviamente un po' oscillante, ma su quei livelli lì. Ok, fai pure la bassa, approfittare adesso che sono libero, che così ti dico com'è la faccenda, perché lì bisogna stare un po' attenti, eh. Giaffra, non c'è problema, ti ho detto. Io quando dici decide a fare cose, le faccio assumendomi le mie responsabilità. Non ne pago e non me ne affutti più nulla, tanto. Non c'ho niente da potermi. Baracchini sono tutti baracchini vintage, concessione non se ne paga più, HF non li ho più. L'unico che ho è quel misero 140 e quel 430 che posso anche staccarli e mettere dentro l'armadio. Io non c'ho altro, quindi. Aspetta che ti chiamo un attimino, anche così mi spieghi bene questa per alimentare la 24, vabbè, 24 volte ce l'ho la diventata. Sì, ok, chiama. Comunque mi riferivo ai 24 volt che bisogna stare attenti, non alle 5 euro. Ok, chiama pure. Sì, già, ci sono buono. Almeno quello, dai, anche se qualcuno dice che sono un asino in elettronica, ma sono un asino sì in elettronica, perché non capisco niente, però almeno a collegare un alimentatore ancora già ci riesco. Aspetti, chiamo. Sì, Gianfra, smontata, dai. Adesso l'ho messa sopra il DAC. E poi domani mattina conservo quella la spalliera, tutta quella roba lì. Mi devo allungare il cavo a... non c'ho cavo. Domani mattina lo prendo. Per arrivare all'alimentatore ci vogliono almeno 2-3 metri di cavo. Tanto, guarda, tanto assorbe pochissimo. Siamo dell'ordine dei... 3-4 ampere al massimo. Io la voglio vedere accesa. Poi appena l'accendo ci sentiamo e facciamo le prove tecniche di trasmissione. Sì, facilissimo era, dovevo sfidare quei rulli, sfidarla e poi sganciare la piastra. Vabbè, ho sganciato anche la piastra. KK. E va bene, te sei fatte le due. Mi ho messo un telefono o l'applicazione io? Che mi serve per vedere quanto sto guadagnando spendendo quanto sto guadagnando spendendo soldi. Su gennaio c'ho già 18 euro di rimborso, devo farne almeno 50 entro 6 mesi, dopodiché mi restituiscono soldi, magari c'è qualche antenna, qualcosa del genere. Già va bene. No, io ho preso questo Galaxy Saturn Echo, ho fatto. Finito, baracchini ne ho parecchi, tutti perfettamente funzionanti. Per fare due chiacchiere sono più che sufficienti. Sì, questa è dallo Stato, è l'applicazione. È quella che vedevi anche in televisione, la pubblicità, ma mi pare che molti italiani non hanno capito un tubo. Per una volta che ti restituiscono soldi, magari no, la gente non li vuole. La mia collega credo che ci abbia già 50-60 euro di credito, che se permetti è meglio in tasca nostra che in tasca loro. Praticamente se tu usi il bancomat, per tipo quando vai al supermercato, al bar, in qualunque posto, non usi il contante, quindi paghi col bancomat, praticamente elettronicamente ti viene rimborsato il 10%, quindi pagando così, oltre a dare una mano per contrastare l'evasione fiscale, cosa non da poco, ma se fai ad esempio spese grosse, solo 100.000 il pieno carburante, ecco, metti 50 euro, il 50%, cioè il 10% sarebbero 5 euro che ti restituiscono, e quindi è una cosa buona, ecco, invoglia i cittadini a essere più attenti spendendo, e poi anche lo Stato riesce ad avere più entrate fiscali. Beh, certo che sì, KK. Vabbè, che cosa vuoi fare? Peccato, se avessi avuto la vernice verde militare, che poi si trova, no, già fa la vernice per dare una rinfrescata. Su quello, guarda, come verniciatore io no, è una di quelle cose che veramente, a parte che la odio, odio forniciare, tanto è vero che il traliccio, secondo me così mi sbara, dovresti chiedere a cosa, come stavamo parlando, chi è Roberto, credo. Insomma, con l'aspetto di vernici, lui lo sa, di cosa ci va. Ehi, la faccio vedere. Ma vedi se si può dare una rinfrescata, almeno sopra i fianchi. Capito? Piano piano. Aspetta un attimo il telefono. Ok. Prova, radio 1-2-3, prova. Che è avanti? Ciao Nicola, qua Gianni la scimmia, salutoni. Gianni la scimmia. Sì, sono nuovo qua, dai. E io sono qua, dai, zona Patamona. Ah, ma c'è bene in varia? Positivo, io ho un'antenna piccola nel terrazzo, dai. Va bene, ti ascolto bene. Uno mi ha detto una parolaccia, avanti, chi è? Ecco, la mazza che te ne scende, la mazza, la cosa, la mazza della tramazza. Tu mi ascolti bene, lupo grigio? Passo. Troppo bene, benissimo. La radio 9, segnale 5. Sì, guarda, c'è quello Claudio, lo sento forte. Dov'è Claudio? Positivo, ok, va bene, ti ascolto bene, dai. No, in campo, adesso sono qua in zona monte. Sì. No, adesso sono fermo. Sì. Sì, come ho detto prima, Gianni la scimmia. A me hanno detto di pagare 24 euro, ho pagato 24 euro, boh. È un certo Claudio, boh, che parla qua. Boh, non lo so, lui mi ha detto che si paga così, e così ho pagato. Sì, positivo. Vabbè, piano piano la monterai un'antenna sul tetto, piano piano, dai, tempo al tempo. Sì, piano piano, però, Sì, buongiorno, buona Pasqua. Sono Antonello. Io già ti ho sentito parecchie volte. Ciao Perugio, mi hai sentito? Ciao anche a Luca. Breccede. Avanti. Buonasera a tutti, ciao Antonello, ciao Luca e ciao Nicola Pogrigio. Ti sento bene a te, perché ogni tanto ti sento un po' bassi, oggi sei forte. Tu non lo conosco io. L'amico di Falcone è quello. Ho capito anche io chi è, dai. Io non sento nessuno qua. Ok, Merico, questa antennina quando è che la mettiamo? 9 più 5 coi picchi a 9 più 10, ti ricevo bene, dai. No, ti ascolto bene, radio 5, segnale 9 più 5, è pulito, niente da dire. Il microfono suo originale sta utilizzando, confermi? No, ti ascolto benissimo, niente da dire. Vediamo Luca, avanti a te Luca. Luca, sei perso, Antonello a te il mic. Ehi, a cappa. Tanto che ho ricevuto un coso da YouTube. In pratica la concessione del barchino non si paga più e la concessione esiste più. Puoi usare la 27 PMR. Sì, questo dal 27 luglio, cioè, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 luglio scorso e non si paga più. I radioamatori invece continueranno a pagarla finché non decideranno. Poi stamattina mi è arrivata un'altra cosa. In pratica vogliono fare come in Germania, il reddito universale. Per tutti quelli che non stanno lavorando nelle aziende danno 1200 euro ogni mese. Ehi, quando lo vedo vi credo. Cioè, quando c'è, siamo ancora nella cassa integrazione, ancora io lotto, devo andare ancora alla cassa integrazione. Stanno pagando il coso di settembre ai ristoranti, 1000 euro, uno un ristorante che magari ne incassa 15-20.000 al mese, gli stanno dando 1000 euro, l'elemosina, lascia perdere Antone, non fatti prendere in giro. Io su YouTube l'ho letto, e non è una vicepresidente quella. Capito, è una specie di statuto sul diritto cittadinanza, quando ci sono i pagamenti da balagere, hai capito? E mi è arrivato oggi, mi è arrivato. In pratica vogliono fare, non l'hanno ancora fatta, però vogliono fare quello. E capito, siccome c'è un bel gente con la questione del Covid, sta licenziando parecchia gente, allora tu, per poter avere qualche punto di PIL in più, capito, vogliono fare come Germania. In pratica in Germania c'è il reddito universale, si chiama, vogliono fare quello. Ci sono soldi? Dove sono i soldi? Chi ti prende i soldi? Tutti quelli che non lavorano pigliano i soldi. A quanto sembra, vogliono fare così. Sempre se lo decideranno. È stata una proposta come quella che aveva fatto la volta Grillo. Io ho detto, ma cosa fare invece? A quanto sembra stanno pensando a quello. Tutti quelli che stanno licenziando, di avere fatto un po' di soldi ogni mese, capito, per poter mandare avanti il figlio e cosa del genere, in modo che spendi, e dopodiché la questione gira, capito. Poi speriamo che questo Covid se ne vada in fretta, che non duri tanto, altri 3 anni sono, siamo fregati davvero, ci troviamo tutti a lavare macchine. Registrato, sì, ma quello non è reddito di cittadinanza, Antone. Quello è un sussidio tipo REM, un reddito di emergenza, capito, che danno a quelli che sono stati licenziati o che hanno chiuso le attività, eccetera. L'ho già sentito. Va bene, avanti break. 9:20 quasi, Claudio, ciao, buonasera, avanti Antone. Anche qua 9:20, Confermo anche io 9:20, ma dimmi una cosa, ti stai aiutando o sei liscio, Claudio? Mi hai sentito comunque? Guarda, se stai usando la stessa potenza dell'altro giorno, forse un peluzzino migliore, ma proprio una cosa impercettibile. Il segnale è forte, non posso dire niente, avrei voluto fare i confronti per dire commutando l'antenna, ma non puoi farlo. Secondo me stai andando, almeno per quello che vedo io qua, un peluzzino più forte. Aspetta, c'è anche Nicola Lupo Grigio. Nicola, l'ascolti a Muros? E tu, Claudio, l'hai ascoltato? Nicola. Fate girare però. Oh, Claudio, hai visto la foto che ho mandato a tuo padre della radio militare? È una radio militare americana, perfettamente funzionante. E si può mettere anche a tracolla, vai. Ho mandato la foto perché lui so che è appassionato. Adesso devo allungare il cavo perché va a 24 volte, devo allungare il cavo e accenderla e provarla. C'è la microcornetta, va anche in AM da tutte le parti. Va bene, fate girare però, vai. Avanti a chi tocca, Roberto, fai girare tu. Ehi, no, volevo dire soltanto a coso, Claudio Di Muros, lui dice ti ascolta Nicola a livello di QRM, sta trasmettendo da casa sua con una 48 e io da parte mia ho migliorato un po', il segnale è un po' più forte, l'ascolto 9:5 a Nicola e la radio va benissimo, purtroppo è in condizioni un po' limitate come antenna, ma speriamo che si risolva anche lui la situazione e riesca a mettere un'antenna più performante. Ok, c'è anche Antonello Pompugno che lo rilanciamo, avanti Antonello per Muros. Ciao, ce l'avevo giunto ben sentito. E salutone, già sta arrivando bene la voglia. Sei una bomba, sei qua. Sei forte, meglio così. E a me come mi ascolti, sto dando il Connex 4000. Ehi, aspetta, rilasciamo a Nicola che sembra avanti a te Nicola il mic. Ehi, ok, riprendo io allora. No, scusa Nicola, volevo dire Claudio, ma quella roba, quella specie di porta computer che ti ho detto, non vi interessa più o che cosa? Non ho capito. No, perché voi avete parlato di scrivania, non è una scrivania, anche se è un ripiano che si può utilizzare per scrivania, solo per quello, perché tua mamma ha detto quella scrivania, ha detto no, guarda che non è una scrivania, è una specie di console, chiamiamola console, porta computer con due ripiani e basta, c'è un cassetto che si sfila per mettere la tastiera e va, secondo me va bene per mettere il coso, la banda, come si chiama, il CB, il baracchino. Sì, ti ascolto bene, niente da eccepire, nulla di cosa, ma le stazionarie anche se sono 1.3, 1.4 non ti preoccupare, non c'è problema, imparate che non superi il 2, dopo il 2 devi iniziare a preoccuparti, ma 1.2, 1.3, 1.4 va più che bene, non c'è nessun problema, non che non usi potenze esorbitanti e tratte lunghe, a quel punto il rientro può essere vari, se usi un kilowatt e c'è 1.5 di stazionare, magari la parte residua, quella che ti rientra, possono essere watt abbastanza importanti, ma con potenze limitate non ci sono problemi. Ok, facciamo riprendere Antonello e poi il nostro Claudio, ci sei ancora? Claudio, torre di controllo. Marco? Sì, sono qua, c'è stato anche un break, avanti Antonello, fai entrare il break. Ehi, a capa, avanti, ma sentiamo, mi sembra. Volevo chiederti se sto scendo con volontario da Ternata, là. Sto usando il microfono che sta posando un bombo l'altro giorno. Guarda se c'ho il tuo zio. Sì, leggero, ma ce l'hai. Avanti, break. Sì, vai, buonasera. Ciao, tutta la ruota. Mandate un controllo di radio, per favore. Sto facendo un piccolo video, scusate. Mi serve sapere come sta andando. Aspetta che così lo fai su di me, il segnale qua è 9:20, la radio è 5 perfetta, come sempre, come al tuo solito, ottima modulazione, bella pimpante e corposa. Ok ragazzi, grazie mille, dai, ci sentiamo, grazie. E io confermo anche io gli stessi rapporti di qua, 9:20, radio 5. Va bene, ok. Sì, Antonella, leggero leggero, in sottofondo ce l'hai quel rumorino di alternata, però ripeto, molto ma molto leggero. Comprensibilissima la modulazione, diciamo quasi perfetta, però te lo porti appresso, ma niente di che, è proprio leggerissimo, leggerissimo. Sì, ho visto il video, le foto che mi avete mandato, Claudio, del montaggio dell'antenna, va bene così, il segnale è tornato come era prima, forse anche meglio, la radio è bellissima, tieni questa, usa questa, ma insomma tieni molto in considerazione questa radio perché ci veramente magnificamente bene, quindi va bene così, ok. Ripassiamo il cambio a Antonello, vediamo se fare qualche altra prova, se no riprendi tu Claudio da Muros. No, già, aveva già tutto qua su cose, il Saverta. Va bene, riprende Claudio Ramuros, fai tu, riprendi tu. Ma il palo è rimasto quello lì, Claudio. La mancava turbo è stata sostituita, non mi ricordo come si chiama, l'ha presa Riccardo, credo che ne abbia comprato due di quelle antenne, funzionava più che bene, l'accoppiatura della mancava turbo hanno fatto qualche fesseria, secondo loro è più performante, ma l'antenna è più o meno, le prestazioni sono, secondo me non cambia niente, è soltanto una questione di mercato, perché hanno detto, esci, facciamo un'antenna nuova, magari riusciamo ad avere qualche cliente in più. Ho visto l'altro giorno stavano vendendo una mancava turbo, perché sta diventando rara trovarla nuova. Questo tipo la sta vendendo 300 euro in bustata, infatti l'ha detto, ah sei scemo, dice trovate, ma da voi una mancava turbo nuova, stanno diventando merce rara perché quelle antenne ormai non le producono più e chi ce le ha se le tiene, io ne ho una in busta usata, però è nuova nuova, l'aveva tenuta da qualche mese, è maestrale, Salvatore Maestrale me l'aveva regalata a me, ce l'ho di scorta, se si rompe la mancava 1 piazziamo quella lì, subito subito. Ti tocca, avanti Antonello Pompugno. Già lo so, le mancava, ma se le fa pagare, comunque costano di meno, sai dove, se tu chiami, mandi un'email e c'è qualcuno che dia la protezione civile, la mantova la paga intorno ai 100 euro. Ma non la fanno più la mantova, Antone, a meno che non trovi qualche negozio, c'è un forum di civile, di amatori su internet, stavo guardando, questo li ha fatti arrivare, non so se dalla Svizzera o da dove, c'era un negozio e ne aveva qualcuno, ma in Italia non se ne trova nessuna parte perché Riccardino, quando doveva prenderle, le ha cercate da tutte le parti, ha fatto l'elenco di tutti i distributori dei negozi che le vendevano, avrà fatto una decina di telefonate e nessuno le aveva, alla fine ha preso la nuova che è uguale alla mantova turbo, qualche fesseria hanno cambiato ma l'antenna è la stessa. Sì, per quello basta pigliare la Super LM, dato che su internet la LM sta facendo la pubblicità per l'antenna della macchina, non costa niente. Chiamare di lì, chiede se c'è una Super LM e metti quella, è molto meglio della mantova turbo. C'è sempre i quattro radiali lunghi, questi ce li ha lunghi però sono alluminio, 2,70 mi pare, so c'è la bobina, come si chiama, è bella come antenna, è molto robusta, che ce l'aveva un CB a Sassari tanto tempo fa, non è mai successo niente a quell'antenna, ma con la radiale è sceso, figurati tu. Ecco, 10, avanti. Buonasera, Roberto Profeta da questa parte. Ciao Roberto, non so chi ci sia, niente, dai, fai girare. Ciao Gianni, ben sentito. Giovanni, sei con compagnia mia di Antonello Pompugno, Claudio Torre di Controllo, Carlo Claudio di Muros, e c'era in ascolto Nicola, non so se ci sia ancora, vediamo se c'è ancora, se riesce a salutarlo, perché qualcuno non l'ascolta. Avanti Nicola, attaccato, ti rilancio più lontano, Muros a te. Ciao Claudio, ben ascoltato, Santiago 7. Per te Radio 5, bene meda, dai, anche io ho ripristinato l'antenna ieri, dai, sta andando bene, e quindi tutto a posto, avanti torre di controllo. Sì, ciao, già, buonasera, ben ascoltato, un attimino che io stavo mettendo a posto qua, la radio, lo stesso vintage, l'ho portata di posto, il cambio per Antonello, vai Antonello. In effetti sto cercando quel sito dove ho trovato la mantova, che la davano alla protezione civile 100 euro, 120 massimo non di più, perché che controllo così, l'ho vista, un mesetto fa l'ho vista, aspetta un attimo, lo controllo così glielo do a Roberto l'indirizzo. Ma è disponibile, è una cosa a dire che esiste, però se è disponibile, perché ci sono molte volte le immagini e c'è scritto al momento non disponibile. Disponibile solo per la protezione civile era, e basta, c'era scritto così. aspetta che controllo, ti, quindi ti dico quale sito è e quale negozio è, se c'è ancora, aspetta. Ok, e poi se c'è disponibile solo la protezione civile, e cosa ne vai? Devi chiedere a qualcuno la protezione civile se c'è la compra, ma lì devi fatturare, dare le partita IVA, eccetera. Ci sono le ambulanze, vada di là fotti. Basta fare richiesta, se conosci qualcuno che fa protezione civile in ambulanza, te la fai dare direttamente da lì, no? Poi tu gliela paghi in contanti, la dirà tutti. Vabbè, qualcuno già si conosce, dai. A me sinceramente non interessa, perché ti ripeto, ce l'ho già, la 1 è piazzata e la turbo di scorta. Ok, avanti Gianni, un profetta che poi farà girare a Muros. Ehi, ehi, dai, dai, dai, sono contento che riesco a arrivare a Muros con Santiago di 6, piccolo piccolo. bene meda, io sono forse il più piccolo a livello di antenna. Comunque dai, già mi difendo abbastanza bene. Avanti, Ica. Ma io non voglio deluderti, però io direi, tieniti questa qua, ti alzi il palo finché ti dura della Deni, poi se ti capita l'occasione di una volta va te la metti, però per il momento tieni questa, non sarei così sfigato che si rompa di nuovo l'antenna, magari poteva essere materiale, l'alluminio difettoso, può capitare, una verga di alluminio, un tubo di alluminio che magari c'è dello smooth, diciamo ossidazione, che poi si rompe, qualunque cosa si può rompere, si rompono le macchine nuove, in garanzia si spacca il motore, dice ma ho fatto 1000 km, magari quel pistone lì era difettoso e si è crepato il motore. Io direi, quel visto che stai andando bene, prova solo a sollevare di qualche metro e vedi un po' il rendimento. Se va bene l'antenna, tieni questa e l'altra, come ti ho detto prima, se ti capita l'occasione te la tieni da parte in emergenza. Ehi, ascolta, vabbè, il sito è www.navico. Poi trattino online IT contact P e poi ci sono tre punti, c'è scritto antenna CB Mantova 1 Sigma aspetta 114 euro, la Mantova 1 sì, Mantova 1 Sigma 114 euro per la protezione civile, c'è scritto. Aiuto, c'è anche la Mantova 2, la Mantova 2 o la Mantova 5, vabbè, c'è anche la Mantova 5 usata, basta che tu scrivi antenna CB Mantova 1, ti appare questo sito qua, ti appare 114 euro, c'è addirittura la foto della 1, poi c'è anche la turbo addirittura. Ehi, dimmi una cosa, Claudio Murosso, il piantone ce n'è ancora di quell'antenna che si è rotta? No, se non ti serve il piantone lascialo da parte, che siccome voglio fare un'antenna per altre cose, per un ricevitore, magari utilizzando il piantone, ma che radialini c'ha di quell'antenna? Scusate il monopolio, dai, no, sto chiedendo informazioni, allora è una domanda, se vuoi rimettere da parte o se non ti serve mettimelo da parte per me, che devo fare per altre bande, per altre frequenze di ascolto naturalmente, non di trasmissione, mettimelo da parte se non ti serve Claudio, poi magari ci mettiamo d'accordo. Che antenna è quella che stai utilizzando adesso? Ripeti, non ho capito. Ah sì, allora ho capito bene. Ok, facciamo riprendere a Gianni un profetta, poi farà girare, non so se ci sia Claudio, aspetta, vediamo se Claudio è rientrato. Sono qua, avanti un profetta. Ehi, bene, stavo ascoltando, vabbè, comunque il vento ha fatto qualche vittima, dai. Non so se sei ancora lupo grigio, sei ancora in frequenza, o si è spostato da qualche parte, vediamo se c'è. Lupo, ci sei? Non c'è, avanti Sparvieri. Ciao, vabbè, ci devo mettere l'antenna, Lupo, arrivo da qui alla Landriga, anzi neanche, perché no, io lo sento Santiago 2, 3 a Carbonazzi, immaginate tu. Sono antenne che non sono molto robuste per l'intensità di vento che sta facendo in questo periodo, ne avremo ancora tantissimo di vento, quindi cercate di fare le cose fatte bene, altrimenti butta giù tutto. Io fortunatamente ho fatto piazza pulita sul tetto e mai più, e sottolineo mai più, monterò antenne di quel genere, per carità, quanto ho sofferto. Ho la Mantova e una piccolina di quelle VU per fare il PMR, basta. Adesso a giorni toglierò anche quel cazzo di polo che c'è, che intanto non ci fa niente perché il radio non ne ho più, quindi avanti chi tocca. Antonello, ancora ci sei, se no riprendi tu, Roberto. Perché lo togli del polo qua? Ce ne fai, no, non ho più radio da fare attività oggi, per ascoltare. Ma vai, non me la butti inutile. No, non lo buttare allora, ti do la parte. E se ti serve, te lo stacco. No, non ne metto più, no. Soltanto ne ho già, non ne ho radio, roba, cos'è? C'ho il 440 che c'hai benissimo. E il 430 che è sempre spento, ma non c'ho più niente che mi possa, insomma, far andare in aria. Nel senso che non c'ho più accordatore, non c'ho più radio, non c'ho più cemento, non c'ho più niente, non c'ho più niente. Però già detto, solo baracchini, guarda che bello questo. Una gannonata. Questo è l'Ecco. Questo è stato un Ecco, sì, ma non l'Ecco non attacco io, C'è l'MBP5 attaccato. L'ho invertito col tanner, ho rimesso l'ovvera, e va bene lo stesso. Eia, avanti Muros, a te Claudio, due Muros. Quindi ce l'avevi la 95, che fine gli hai fatto fare, Cla? Certo, ma si riparano le antenne, cacchio, poi la Mantova 5, la Mantova 1, il piantone è in rigida, non si rompe mai, basta metterci poi i radialini, se si è rotto lo stile in alluminio si trova il tubo di quella misura lì, si fa tutto, ma è tanto buttarle le antenne, a meno che non siano completamente fradice, spaccate a pezzettini, ma se c'è il piantone, si è rotto un elemento, si cambiano, si sostituiscono a voglia. Eia, lasciate un attimo di bianco, va bene. Ribadisco che le antenne vogliono buone per essere efficienti, soprattutto nella durata, eccetera, eccetera, e poi montate bene. Purtroppo, come ha detto Roberto, la mantova non la fanno più, io ne ho anche una di scorta, non la ho, me la tengo, non si sa mai, però quella che ho ancora nuova, l'ho revisionata quest'estate, quindi va bene così. Si trovano, se ti metti alla caccia già si trova, io l'ho trovata nuova, vicino a Mantova praticamente, a Reggio Emilia esattamente, capito, me l'aveva portata un camionista giù, quindi già se ti metti alla caccia già la trovi. Avanti Roberto, fai girare, cambio. Eia, eia, bene mela, a me la palla. Oia. Anche io ho dovuto fare di necessità virtù e me la ho acquistata di chi da maniera, però già va bene, dai. Adesso è tutto liscio come l'olio, vedo che da quando ho puntato il radialino verso sud addirittura l'ago delle stazioni non si muove. Non lo so, comunque, va benissimo. Dai, per i piccoli fatti che ho già ce n'è per i maialetti. Vediamo se Antonello è rientrato. Avanti Antonello. Sì, sta guardando un po' di antenne, cazzo, guarda, 149 euro la Super L'M viene, più la spedizione 160 qualche cosa. Costano poco già le antenne adesso. Quando si fotte la mattovana di tubo che ho qui, la lascio giù, vi faccio la modifica, ti metto il pezzo di acciaio da qualche pentola nella base, dopodiché ti metto le viali in alluminio, ma non lì come li prendo, 2,75 mi sono fatto la mattovana di tubo, cioè la mattovana 1 mi faccio in pratica. Tanto la misura è 2,75 a voi che basta e avanza. Telefono sulla trappola. Ecco. Avanti Massimiliano. Ciao Alessio, mi vai un controllo gentilmente? Fai? Vento, segnale radio, vento. 9,10 con picchia 9,20, appena compreso, sì però. Addirittura compreso. Claudio, ci sei? Sì Massimiliano, no, io ti ascolto con Galaxy, sì, perfettamente a posto. Ok, va bene, grazie, ritorno subito. Vabbè, non parla più nessuno. No, dal telefono io, che c'è, chi è arrivato? Oia, Giangiorno non ti sento, cosa stai smanettando, eh? Oia, ascolta, mi fai la cortesia, mi dai un rapporto di segnale dalle tue parti? A me? No, Antonello, dicevo, come gli sto arrivando? Se mi ha accoppiato, Antonello? 9,20 qua. Perfetto, grazie, avanti qua. Ho detto, tutti qua siamo. Se ti do 9,20 io, ti può dare 9,22 Antonello, oppure 9,18, capito, Roberto ti ha dato 9,20, siamo qua, quindi qua nella zona di Carvazzi arrivi 9,20. Sto ricevendo col Galaxy, perfettamente in ordine, quindi vabbè. Avanti Roberto, ripeto. Ehi, chi è entrato nel frattempo? Qualcuno si è sentito entrare? No, Massimiliano a chiedere un controllo. Ehi, quindi siamo arrivati io, tu, Claudio Di Muros, Antonello e Gianni Rubroffetta. E buono, avanti Gianni a te. Ehi, ehi, cosa volevo dire? Mi è uscito dal capo. Comunque, appena me lo ricordo ve lo dico, avanti Robè. Adesso parlo di segnali. E quanto ti arriva a te coso? Quanto ti fa girare il baracchino senza antenna, coso? Antonello Antonio Bombolo. Vicino a te siete molto vicini, anche senza antenna lo ricevi lui. Sì. Mi splatter anche su altri canali, figurati tu. Ma immagino, quando siete così vicini è allucinante. Poi se sono baracchini, molte volte hanno delle spurie molto più più presenti rispetto ad altri apparati più diciamo di livelli più alti, dai, non dico migliori, livello un pochettino più alto. Muro su, avanti a te il mic. Con i rotoli bisogna stare molto attenti, bisogna fare un lavoro ben fatto, perché sono chiaramente un rotore di grande qualità che costa soldi, se no si sfacciano dopo un po' di tempo, in brevi termini si spaccano. Io signori devo lasciare, adesso devo fare cosa? Saluto a te Claudio Amuro, torre di controllo, l'altro Claudio, Gianni Rubroffetta, poi chi c'era? Antonio Pomponi e tutti gli eventuali amici qua a Canale 10. Ecco, mi stavo impapinando. QRT da parte mia, ciao ciao a tutti. Ciao Robè, alla prossima, quando coinciderà, dai, avanti Antonio. Ciao Robè, ci sentiamo alla prossima, ci sentiamo. Luca, vediamo se c'è la Massimiliano Budo, avanti Massimiliano, sì. No, cioè, fai girare tu dai, Profetta. Aspettiamo un bulldozer, vediamo cosa combinendi. Avanti Claudio, Sparviero naturalmente. Specifica, se no magari riprende Muros, va bene. No, sta facendo le prove Massimiliano, dai, sta facendo gli spostamenti, sta facendo le prove. Ok, avanti Claudio Di Muros. E io ce l'ho V, a turbo se non mi ricordo male ce l'ho 4 o 5 anni, adesso le ho cambiato tre io antenne. Ho avuto la 1, dopo che ho avuto la 1 ho preso la 5, dopo la 5 ho preso la turbo. E prima di andare a turbo avevo la mia 27L, con il radiale di Grand Prix, che poi gli ho regalato a Mario Manser. Lui la Mantova ce l'ha il mio 2 di Mantova, deve solo piazzarla e basta. Se mi sbaglio c'è la 5 e la turbo c'è. Ehi, va bene, Meda, la roba di qualità se la fanno pagare, se la fanno pagare, oh, yeah. Vicino, cioè, nel centro storico ne ho notato alcune di quelle antenne lì, un paio, nella mia zona ce n'è una, chissà se è ancora operativo, zona dietro il Duomo diciamo. E poi ce n'è una dalle parti di San Donato, alzando gli occhi al cielo l'ho vista, non so se sono operative tutte e due, chissà, magari è roba che è roba in disuso e vanno a mantenere di alza sul tetto, praticamente le hanno lasciate appese, vabbè, avanti Sparviero. In che zona c'è? Allora, più precisamente ce n'è una in zona Piazza Quarto Frasso, ce n'è una lì e poi una zona San Donato. Tu ci vuoi vedere un Claudio Sparviero, ci vuoi vedere un Antonio, io non lo conosco il centro storico, cos'è Ghito? Via Grasso, cos'è? Una di padre Francesco, l'antenna, l'altra che sta dicendo lui è di cosa? Come diavolo si chiama? Francuffia, che pare di Tatolino. Adesso mi ricordo un attimo, che quella ragazza, quella tipa modulava insieme alla moglie di Piero Draco. Poi c'è un'altra di antenna, se noti bene, rimane parallela con suo vicco Gianni. Quella è di Marciddu, la Superlab che in pratica è piegata in un fianco. Ehi, no, vabbè, per Claudio Sparviero. Allora, parlando della piazzettina che c'è dietro il Duomo, Rubatio di Rudiauro, piazza 4 Frassuco, ok? Allora c'è quella fontanata, dice. Cappa Roger, quella lì. Ah, ma cos'è, l'antenna centrale radiale? No, no, è una Mantova. Ah, lì abitava Nino Torrebravo un periodo. Non so se è rimasta l'antenna. Sì, sì, qua, siccome in famiglia abbiamo un piccolo monolocale in Iran, in quella piazzetta, e quindi alzando lo sguardo, ma già da tempo, è ancora tuttora in piedi. Beh, qua è via, nella via qua, via Bessa, c'è l'antenna ancora di Antonio Reventi, figurati, che manca 20 anni da Inchivi. Eia, sì, quella di San Donato, come stava dicendo Antonello, presumo, se lo sta dicendo lui, che sicuramente è più informato di me, di padre Francesco. E poi l'altro giorno, passeggiando, fare il commissario, ho visto l'antenna di Natalino, lo salutiamo se l'ascolto, dai. Vabbè, quella che ci vede, ma quella di Nino era lì, in quella piazzetta, mi ricordo perfettamente io. Dove abitavano i genitori della moglie, capito? Quindi non so se è rimasta ancora lì. Va bene, Claudio D'Amuro, se riprendi, e a te il microfono, un secondo, arrivo subito. Ciao, qua ci sentiamo. Comunque lei ti saluta mica tuo padre. Chi è che sta chiudendo? L'otto Claudio. Ciao Claudio, saluta babbo, saluta mamma e ci sentiamo le prossime, dai, cordialità. Avanti, Rubrofè. Ciao Claudio, ben ascoltato, ben sentito e ci aggiorniamo prossimamente, ok? Buona serata e buona carica quando la fai. Avanti Claudio. No, io purtroppo la zona, la so girare tutta già la zona centro storico, però se mi parli di vie no, non ne capisco l'accidente, nonostante sia l'85 qua, però centro storico l'ho girato poco, capito? Nel senso che non so le vie, però già non mi perdo, dai. Se mi dai un appuntamento già ci arrivo, ma se mi fa vedere la via, chi lo sa. Poi tempo fa mi è apparso, adesso non so se era un'antenna simile, comunque avevo visto un'antenna CB zona lì di Cappuccini, è probabile, forse Antonello sa qualcosa. In Italia ce ne sono tante di antenne a Cappuccini. Quella di, aspetta, come si chiamava, che in pratica in una piazzetta, sapendo dove abitava il camionista che era rimasto, già lo sai, lì c'era molto, ma c'è, ci abitava anche Giacomo Mandacchi in quelle palazzi lì, vicino attaccato dove abita adesso mi viene in mente, diciamo sulla punta della lingua. Vabbè, era. Comunque già mi hai capito. Vabbè, ho capito metà del passaggio, perché c'era una portante sopra di te, adesso non so chi sia. Avanti, chi vuole entrare qua sul 10? La portante me l'ho messa. Ehi, ancora io non me ne accorgo, perché qua c'è il fondo scala, di buri a portante, chi vuole? Vabbè, quello già è vero. Tutto qui non sa se niente, neanche a quadrato ce ne sono. Se vuoi Mantova, bisogna solamente andare sopra e staccarle. Un po' male viene a staccare quella di, che stava dicendo Claudio, in Vermesta. Ci sono sempre di palo, ci sono. Se non metto il cubico ti voglio vedere scendendo in terra. Immagino. Vabbè. Adesso ogni tanto, cioè spesso mi capita di fare due passi e alzare lo sguardo al cielo, e quindi mi metto a curiosare, dai. Avanti Cla. Quell'antenna, per capirci, la piazzata Zio Claudio con il punto 131 è lontano di più ed è ancora in piedi, tanto per capirci, no? E appunto per quello, lo so. E se non mi ricordo male, da giù mi sembra un palo d'acqua quello, non mi sembra un palo telescopico. Quindi scendo da giù ci vuole almeno 4 persone. Allora, quello è un palo d'acqua, hai detto bene, un palo da 4 metri di acqua. Poi c'è il piantone che è praticamente cementato al tetto dove innesta quel palo d'acqua. E il piantone è in acciaio inossidabile. Ok, il capo è ancora attaccato, perché il capo di quell'impianto lì è tutto sotto traccia, praticamente entra assieme ai cavi della TV e va a finire nell'appartamento dove abbiamo linea dei cavi TV, un impianto fatto a regola latte, e Antonio l'ha avuto lasciare così cosa faceva. Sì, Antonio aveva parlato di nulla, ma di andato in pensione. Ma il coso sta, l'altra volta stavo dicendo, dice, Antonio ti serve il barattino per la tua pelle, vai, vai, la panzina giù, guarda, me l'aveva fatto uno, ho detto, un po' di tempo fa gli ho detto. E l'ho modificato, c'è una cosa nel foto, ho detto, per la musica che ho fatto, ho detto, mi sembra... 30 minuti, non mi ricordo, 23, 34 canali, ti ho fatto uscire roba di 600 canali in tutto DAB. L'ho aperto, era una cosa allucinante. Ma, faceva tutti i 43, poi ci usciva sopra, ci usciva anche sotto, ma non i canali. E c'era un amico di Giancarlo, mio ex cognato, che in pratica fa il meccanico, l'avevo fatto a lui. Quando l'avevo visto, mi ha detto, ma dove l'hai fatto questa baracca? Lui dice, perché prima segnava solo con display, dice, 23, adesso non mi ricordo se era 23, 34 canali, dice, adesso sale 800, 500, mi ha detto, no, non ho fatto niente, no, lo sono modificato. Poi ti segna il più in un fianco e meno dall'altro addirittura. Lo so, ma io no. Non ne ho mai usato di quei 43, non mi interessa. Non voglio manco sentire parlare mai di quelle bande strane, eccetera, me ne ho fatti nulla. Non me ne ho fatti più nulla, sto bene così come sono. Capito, ho già, ma io lì conosco l'amministratore, conosco tutti lì dove mi avvesta. Però è un casino togliere 40 anni, è un casino. Essere almeno 2 o 3 per sfilarla dal piantone e poi abbassare piano piano, eccetera. C'è anche il diporo dei 45 metri ancora attaccato, che li aveva fatto Marco 131, figurati, ed è ancora in piedi 40, non so se funziona, se qui, però è ancora, l'importante è ancora in piedi. Bene meda. Aspetta che mi è venuto in mente un'altra antenna che non so in quanti la usavano al periodo. Aspetta, come si chiamava? A nome di una città. Ah, la Firenze 2. E io avevo avuto la Firenze 2 e la Super Regibus, però quando ero a casa di mia madre a Porto Torre, ho avuto la Standard, la Firenze 2 che era simile alla Mantova, la Super Regibus che era simile alla Mantova. Poi quando sono venuto a Sassari ero montato la Mantova, la prima Mantova 1, capito? Proprio la prima serie, diciamo, ha durato un pacco di anni, un sacco di anni. E io ho sempre la Mantova 1, anche adesso sto usando la Mantova 1. Mentre l'altra che ho il piantone della Mantova 5, capito? Però sono antenne eccezionali, che robuste, che tengono, durano una vita, se le fai con le piccole manutenzioni durano una vita già. Avanti Antonio. La Super Regibus l'ho usata anch'io, l'avevo attaccata al caminetto, se ti ricordi, avevo messo un palo e allora c'era la Mantova 5. Beh, c'era poca differenza da una all'altra, poca roba, perché la Super Regibus piazzata lì dove c'era il caminetto e in pratica è sparato molto, ma molto di più a distanza, invece la Mantova è fatta più per la città, una cosa del genere. Ho avuto anche la Firenze 2, quella l'ho avuta in via di Zinto, che poi è uscita la KF4, se ti ricordi, similare era. Da poi sono pari di tutti queste antenne, non hanno più costruite. Guarda, la Firenze 2 era micidiale, però pesava come un coso, cazzo, era fatta bene, di alluminio, aveva un bemio, pensavo a tagliare quell'alluminio, non è che sarà tagliare umido la matta, vado che ci passi il segreto in pratica lo fai subito, lo tagli subito. Quello che mi sembra 5 o 6 mm, forse 7 di alluminio c'era addirittura. Poi c'era un innesto fatto con tipo gaffetta, che era ovviamente abitato con la chiavetta esagonale, perché c'erano vite esagonali, e poi in punta c'era questo tappo, ma era proprio grossa come antenna, non è molto più corta naturalmente, però era bella, in più quella lì faceva la 26 a 30, e in più potevi usare anche in VHF, perché andava tranquillamente, si isolava in 144 e anche in 45 metri. Accennatene che regionavano, io ripeto, no, ho usato sempre antenne verticali, la 27 e poi quella banda amatoriale che è una cosa già dimenticata e via, però le antenne si sono buone, già funzionano. Avanti Gianni Rubrefetta, Rubrefetta. Oh yeah. Vediamo, facciamo una chiamata a Bulldozer, vediamo se ha finito. Massimiliano, ci sei, avanti. Prego. Avanti il brecco. Allora, buonasera a tutti. Doppio rumbo. Ciao Gianni, ben entrato. Piano piano la ruota si è sfoltita, siamo rimasti io, Claudio e Antonello, avanti già. Sì, allora, mi stavo ascoltando, ma stavo facendo roba, non potevo entrare. Adesso c'è la Blizzard, l'hai vista? No, non la conosco, adesso mi stavo ricordando di vecchie antenne, adesso è saltata fuori la stella della Firenze 2. Ne avevo vista una e vabbè, è passato un sacco di tempo. E niente, dai. Stavamo giusto facendo una ripassata su antenne di vecchi CB che magari non sono più in frequenza. E niente, avanti qua. Manca la stella. Ah, c'è Belligia, manca la stella, devo tante invece. La Super Regi poi se la metteva in tasca la stella. Se l'è venuta dopo. Super Regi poi standard, quegli anni che sono entrato io nel 74 a produttore, già erano omicidiati. C'era il Vernetto, la standard, poco pompava. Io c'avevo la Super Regibus, Gavino Carciofo c'aveva la Super Regibus, Corsaro Nero c'aveva la Super Regibus, il padre il nonno di Gavino. Tutti la Super Regibus avevano a produttore, un'antenna eccezionale. Va bene, ciao, buonasera, ben ascoltato. Eppure nei Pescherecci c'erano, te lo ricordi, la Mantova? No, la Mantova dopo, la Mantova l'aveva messa Gavino Balzano nel peschereccio suo. Gli altri avevano tutti i dipoli, se ti ricordi, tutti i dipoli avevano la poppa prua per la 27, mi ricordo perfettamente, il Battagliere, Sant'Antonio, tutte le cose, i peschereci, quelli mitici, dai. Vabbè, comunque, le antenne queste dobbiamo usare. Avanti Antonè, cambio. E ricordi che la bananotica Marietta? Marietta, Peppino chiama, cambio. Cazzo, buona ma di Giampaolo, Peppino la faceva. Fatti a buon rumore di romottori. Bravo, infatti. Cazzo, si sentiva da lontano quello. Tu immagini che quando io abitavo via Vizzedo, lui era... ci usciva a Bosa, vicino a Bosa, e lo sentivo e ci parlavo sul canale 1. E bei tempi quelli. Allora, poi c'era anche il periodo degli aerei, se ti ricordi bene, che entravo, ogni tanto entrava qualche aereo di linea. Cazzo, tutto questo, vabbè. Dove sei? Sono a Elmas. Cazzo Elmas? Se sei 9.30 qua. Sono a Elmas, stiamo atterrando. Cazzo, ogni segnale. Fondo scala era, cazzo. E così, e dove è che arrivavo io? Da lì sopra. E ma c'era periodo che gli aerei allora entravano in 27, adesso non ci stanno più entrando, ormai sono con la frequenza di però. Prima anche il 27 intanto si facevano la passeggiata. Io mi ricordo che chiamavo il peschereccio quando dovevo andare a pescare, c'era il peschereccio di Amoroso, non so se te lo ricordi, Amoroso era il padre Vittore, di un mio collega, lo chiamavo e mi lasciavano il gran culo per pescare. Bianco per me un attimo. Ehi, gran culo, boccone, no, a me c'era Danilo, te lo metti, Danilo in Baranautica. Io chiamavo lui, mi lasciava tutto, anche il pesce, la zuppa, tutto. Ma io uscivo anche con lui, con Danilo, con mio zio Paolino, con tutti andavo. KK, mettete, mettete. E te lo metti quando ti ha fatto la spesa delle cipolle? Ma vedi, c'era in gran città già, stavamo pescando, qualcosa dovevo portare a casa. Qua era appena entrato il peschereccio, ti ricordo, che ci avevamo fatto togliere le lenti, aspettate un attimo.